sul Messaggero a pagina 3, Monti è definito irritato. Ieri ha incontrato il capo dello Stato Napolitano per parlare del suo recente viaggio in Medio Oriente, ma hanno parlato anche di questi appunto attacchi, critiche al decreto legge, al disegno di legge sulla riforma del mercato del lavoro. E Monti avrebbe detto: attenzione a scherzare con il fuoco. Tanto che guardate due giornali che certo sono sempre stati critici di Monti, ma oggi lo mettono un po' anche politicamente, si intende, sulla graticola, facendosi questa domanda. Il Fatto Quotidiano a pagina 8. Monti ha già fallito? Lo spread cresce, si rischia una manovra bis e ci sono critiche sulla riforma del mercato del lavoro. Libero a pagina 3 con Maurizio Belpietro. La ricetta è questa: mandare a casa Monti. Insomma, sulla riforma del mercato del lavoro ci si gioca moltissimo. Tra l'altro vi segnalo, giusto in conclusione, anche l'articolo di Dario Di Vico sul Corriere della Sera, pagina 17, che racconta l'altalenanza di un rapporto che aveva segnato sulla temperatura grande sintonia e ora grande, se volete, distonia, comunque mancanza di sintonia tra Emma Marcegaglia, appunto, e Mario Monti. L'affondo di Emma, allieva bocconiana, e i dispiaceri del professor Monti. Lo trovate a pagina 7 del Corriere della Sera. E con questo do la linea al giornale radio 24 mattino. Quando sono le 8:21 minuti, eccoci, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, la notizia del giorno di questa mattina, la bella notizia, è la liberazione di Paolo Bosusco, italiano che dal 15 marzo era nelle mani del partito maoista in India. Ne vogliamo parlare con il sottosegretario agli esteri Staffan De Mistura, che saluto. Buongiorno e benvenuto. E benvenuto. Buongiorno e grazie. Ce lo può confermare l'ambasciatore italiano in India? Lo ha confermato. Certo, non gli ha ancora stretto la mano, come ha detto lei, ma possiamo considerare libero Paolo Bosusco? Vede, la cautela in questi casi fino alla stretta di mano è fondamentale, perché quando si cammina nella giungla può succedere di tutto, e di conseguenza francamente io mantengo la mia linea e aspetto una conferma reale, cioè quella della stretta di mano. Una volta avuta la stretta di mano, io la confermo e sono sicuro che il ministro degli esteri in particolare farà una dichiarazione. Questo perché anche in passato purtroppo ci sono stati incidenti da questo punto di vista, no? Ma soprattutto perché, vede, siamo in un territorio molto particolare, è un territorio, una giungla, ci sono tante possibilità che le cose non vadano come vogliamo, quindi cautela e anche rispetto nei confronti delle famiglie, francamente. Lei ha confermato che in trattative di questo genere ci sono sempre delle concessioni che si possono fare. Noi possiamo escludere almeno una cosa ufficialmente, sottosegretario, cioè che non abbiamo pagato del denaro per la liberazione? Vede, quando lei tratta con i guerriglieri maoisti, lei non parla di denaro, lei parla, e come ha visto, ci sono state altri tipi di richieste che sono state fatte alle autorità dell'Orissa, e queste autorità dell'Orissa sono state quelle che hanno negoziato e discusso con i guerriglieri maoisti. Quindi lei può parlare di tutto con i maoisti, ma certamente non di denaro. Se invece parla di pirati somali o qualcosa del genere, è ovvio che loro chiedano denaro e da parte nostra c'è la decisione di non pagarlo, ma ci sono circostanze differenti a seconda del tipo di rapimento. E comunque eventuali concessioni sono state fatte alle autorità locali indiane, e dunque eventualmente sono loro ad avere esaudito queste concessioni. Lasciamo a loro fare i loro commenti su questo. Noi eravamo nel background, come suol dire, dietro la negoziazione, ma la negoziazione e le discussioni sono state svolte, e devo dire efficacemente, dalle autorità dell'Orissa con le loro controparti maoiste. Possiamo dire, dovendo considerare, speriamo, conclusa la vicenda, una sicuramente, e quella di Paolo Bosusco, speriamo, che sono stati imprudenti questi due italiani oppure no? Certo, lei lo sa che il sito della Farnesina indicava che in quella zona non ci si va o non ci si dovrebbe andare, non veniva raccomandato. Detto questo, Bosusco in particolare sembrava essere un grande esperto, sembra essere qualcuno che parla anche molto bene la lingua. Quindi, ma la nostra raccomandazione ufficiale e ufficiosa era di non andarci. In questo un po' di imprudenza insomma c'è stata. Senta, sottosegretario, la vicenda ben più complicata è quella che la vede protagonista anche in prima persona da tempo, l'ha vista protagonista anche fisicamente nello stato del Kerala per i nostri due militari detenuti dal 15 febbraio. L'Italia mantiene la linea, la giurisdizione è nostra per fare un eventuale processo per l'accusa dell'eventuale uccisione di due pescatori. Però, scusi, uso un linguaggio poco diplomatico, è l'India che ha il coltello dalla parte del manico, cioè noi possiamo dirlo, ma i militari sono là. E come si sblocca questa situazione? Beh, ha ragione, infatti loro hanno in mano, i nostri militari hanno in mano anche la nave e il fatto che sono laggiù. Quindi la situazione è la seguente: da un punto di vista di principio bisogna non mollare su questo e non molleremo mai, perché in effetti il precedente sulla giurisdizione è pericolosissimo anche per altre nazioni e persino per gli indiani. Dunque noi insistiamo su questo. Dall'altra parte, se non insistessimo, loro andrebbero bene semplicemente trattando i nostri militari, cosa inconcepibile, come se fossero dei criminali, in poche parole, che hanno, a loro detta, sparato a dei pescatori inermi. Quindi il punto è fondamentale. Il secondo fondamentale punto è quello che i militari vengono solo giudicati a casa propria. Non c'è un solo caso nella storia in cui questo non è avvenuto. Come si sblocca però la fermezza dell'India, che su questo dice non vogliamo sentire ragioni? Cioè, queste sono le ragioni dell'Italia, ma le ripeto la domanda, quale elemento scatenante può far suscitare un elemento di novità che sblocchi questa situazione? Il tutto non è l'India, ma è il Kerala, certo. Ha una situazione particolarmente complessa, con 3 milioni di pescatori, di cui 28 sono morti in incidenti precedenti a quello che potrebbe aver coinvolto i nostri marò, e due votano e sono poveri e sono anche arrabbiati. Di conseguenza il governo del Kerala è particolarmente attento a voler usare questo esempio come un esempio eclatante. Questo a parte, la risposta alla sua domanda è: fermezza, determinazione da parte nostra, uso di pressione internazionale e dare un po' di tempo al meccanismo indiano nel quale purtroppo siamo entrati, visto che la nave ha deciso di entrare in quella rada. Ecco, lei dice purtroppo, quello è stato francamente un errore? Cioè, io l'ho sempre detto anche in onda, ma chi diavolo ha dato l'ordine di far scendere questi due militari a terra? Dottor Milano, lei fa vela per caso nella sua vita, così quando no, ha tempo no, di farlo? No, no. Bene, nella vela, quando c'è una regata, si guarda avanti, non si discute su quello che sono gli errori passati fino a quando non è finita la regata. Una volta finita la regata ci giriamo, l'abbiamo vinta o persa, nel nostro caso siamo convinti di vincerla, i nostri marò torneranno in Italia e poi si fa una buona discussione se va cambiata una legge, se vanno rifatte le regole di ingaggio, se quando c'è un incidente chi decide, i civili o i militari, e così via. Le do un esempio: io sono stato per 2 anni rappresentante inviato speciale dell'ONU in Afghanistan, ero ad alto rischio come puoi immaginare, avevo 3 macchine di scorta. Bene, c'era una regola chiara, precisa, non scritta ma determinata, accettata da me, che in caso di un attacco o presunto attacco, il capo scorta di 32 anni, io ne ho 65, mi prendeva per la collottola, mi buttava giù, mi dava del tu e mi spingeva a destra dicendo: fermo, non ti muovere, aspetta qui. E adesso fuori dalla macchina. Dopo l'incidente, quando siamo tornati in ufficio, io potevo chiamare: ma mio caro capo scorta, mi sembra che eri un pochino troppo agitato. Durante quel periodo decideva lui. Ebbene, credo che dovremmo rivedere un po' le regole del gioco per quello che riguarda questa legge. Questo però dopo, prima riportiamo, lei dice, a casa i due militari. Ma certo, dobbiamo guardare avanti e con determinazione, visto che il caso è unico. Senta, le faccio un'ultima domanda, sottosegretario, su una vicenda che gli italiani hanno per un certo periodo portato alla ribalta, come giustamente, con una mobilitazione, poi è stata dimenticata, la vicenda di Rossella Urru, che anche qui era stata data per liberata, rapita in Algeria, altra situazione, e poi adesso è stata quasi dimenticata, almeno erroneamente, dall'opinione pubblica, so ovviamente non dalla Farnesina. Però le chiedo questo: noi in questo momento come governo italiano sappiamo chi detiene Rossella Urru e quindi c'è un canale di trattativa aperto? come avevamo detto prima, ci sono casi e casi, ogni caso ha una sua identificazione particolare, c'è un gruppo dall'altra parte particolare. Nel caso che lei sta menzionando, il silenzio è la cosa migliore, quindi non faccio alcun commento. Quello che posso solo dirle è che nella Farnesina e altrove non lasciamo nulla intentato e stiamo lavorando in silenzio. Questo per dare anche insomma una legittima speranza, non illusione, ma ai familiari. Voglio dire, il caso è seguito e lo avete... Ma certo, ma come vede, ogni caso ha una sua connotazione. Do un esempio finale, se vuole. Sul Kerala, le ha notato, io faccio molta politica, diplomazia pubblica anche, non solo privata, perché il caso è da portare avanti anche in contesto internazionale, altrimenti non ne usciamo. Negli altri casi invece la discrezione deve essere totale, altrimenti le discussioni non vanno avanti. Io la ringrazio molto, sottosegretario, per essere stato con noi. Grazie. Sottosegretario Staffan de Mistura, sottosegretario agli esteri e diplomatico di lunghissimo corso. 24 mattino. 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta. Il finanziamento ai partiti, ieri pare che ci sia stato un accordo, i partiti hanno deciso di certificare i bilanci, alcuni già lo fanno, bilanci che verranno pubblicati online, verrà istituita una commissione per la trasparenza guidata dal presidente della Corte dei Conti che controllerà destinazione e risorse e proporrà eventuali sanzioni ai partiti stessi, ci sarà la pubblicità alle donazioni sopra i 5.000 euro, uno stop agli investimenti Allegri perché la liquidità potrà d'ora in poi essere dirottata solo sui titoli di Stato italiani. Ho letto l'inizio dell'articolo di Barbara Fiammeri oggi sul Sole 24 Ore a pagina 15 sull'accordo che hanno trovato i partiti e che verrà formalizzato. La domanda, forse è un po' troppo demagogica o forse no, è che i cittadini forse chiedevano qualcosa di più, e cioè i partiti se li riducono questi finanziamenti? Perché va bene la trasparenza, ma... Qualche giornale oggi titola così: una falsa riforma, nel senso che quando si tratta di toglierseli e ridurli, invece no. Ma ne vogliamo discutere con l'onorevole Antonio Misiani, che è tesoriere del Partito Democratico, è già stato nostro ospite. Ben ritrovato, onorevole, eccoci qua. Buongiorno, buongiorno a tutti. Saluto anche il vice direttore di Libero, Franco Bechis. Ben ritrovato anche a lei, Bechis, eccoci. Buongiorno. Tra l'altro Bechis ieri ha scritto come far dimagrire la casta in sei mosse, insomma anche qualche proposta concreta. Intanto Bechis, è una riforma, un accordo gattopardesco, tutto cambi, vi diamo la trasparenza perché insomma altrimenti adesso l'opinione pubblica ribolle dopo gli ultimi casi, ma in realtà la sostanza non cambia molto oppure no? Beh, la sostanza poi la vedremo, nel senso che per ora è diciamo un'intesa politica e dobbiamo vedere quale sarà la riforma del finanziamento ai partiti, che ipocritamente in questi anni è stato chiamato rimborso elettorale, ma di finanziamento si è trattato. L'unica notizia che in qualche modo viene incontro all'opinione pubblica è la sospensione dell'ultima rata dei rimborsi elettorali prevista per luglio, in attesa appunto delle riforme che per ora sono, diciamo, un accordo politico annunciato, ma non c'è. 100 milioni di euro, questa non è la tranche. La cifra è esatta, comunque insomma, diciamo che ci sono, questo ce lo può spiegare Misiani esattamente su cosa è avvenuto l'accordo, per luglio erano previste, sapete, il rimborso a più rate, ci sono le rate per Camera e Senato, le rate per le europee, le rate per le regionali, l'anno scorso per le regionali mi sembra che la rata fosse 38 milioni, quindi non so se siamo intorno ai 100, perché poi il rimborso è stato tagliato da una legge del 2010 e poi tagliato, ma per il futuro, dalla legge dell'estate scorsa, quindi per le prossime legislature. In ogni caso comunque è stata sospesa l'ultima rata per Camera e Senato, non so se è stata sospesa anche. Però sospesa, chiediamolo subito Misiani, la cifra è quella, onorevole Misiani, sui 100 milioni di euro, e sospesa no. Poi cosa vuol dire? Cioè che vi rinunciate oppure che poi arriverà ma dopo in un secondo tempo? No, la cifra è più alta perché sì. I rimborsi elettorali che riguardano Camera, Senato, Regioni e Parlamento europeo vengono erogati in un'unica soluzione annuale a fine luglio e oggi ammontano a 180 milioni di euro. Quindi luglio è 180 milioni di euro che i partiti avrebbero dovuto incassare. E invece la esatto, avete deciso di sospendere, ma senta, glielo chiedo, l'avete deciso anche sull'onda dell'opinione pubblica che... che ha evocato i forconi? No, il punto è che abbiamo radicalmente cambiato il sistema dei controlli. Prima vogliamo vedere dentro i bilanci del 2011, perché la nuova commissione per la trasparenza e i controlli sarà immediatamente operativa sui bilanci del 2011, e siccome vogliamo che i controlli non siano la spolveratina che è stata denunciata sugli organi di informazione che oggi viene fatta, dei controlli veri dei bilanci dei partiti, ci vorrà un po' di tempo in più. Tant'è vero che, secondo la tempistica che abbiamo definito, la nuova commissione per la trasparenza deposita la relazione contenente l'esito sui controlli entro il 30 settembre. Sì. E solo successivamente avviene l'erogazione dei rimborsi elettorali. Però le chiedo questo, onorevole Misiani, sì. Scusi, questi 180 milioni, mi faccia capire il senso di sospesi, cioè sono 180 milioni che i partiti non incasseranno mai? Non prendiamoci in giro, non prendiamo in giro i cittadini. Appunto. Le risorse pubbliche oggi rappresentano dall'80 al 90% delle entrate dei bilanci dei partiti italiani. Chiedere ai partiti di rinunciare oggi a quelle risorse vuol dire che i partiti chiudono, perché con quelle risorse noi ci paghiamo le campagne elettorali, ma ci paghiamo anche l'attività politica ordinaria dei partiti. Nel PD, per esempio, i rimborsi elettorali, come è noto, rappresentano il 90% del bilancio nazionale del partito. E allora gli editorialisti che chiedono a tutti indistintamente di rinunciare a queste risorse dicano chiaramente che vogliono chiudere i partiti. Molti saranno d'accordo, io mi permetto di dissentire. Noi abbiamo bisogno di una riforma di sistema. Noi abbiamo fatto un primo passo molto importante ieri, che rende la normativa su trasparenza, controlli e sanzioni la più severa in Europa, perché noi abbiamo guardato quello che succede in Francia, in Germania, nei paesi che sono molto più avanti di noi da questo punto di vista, come ci ha ricordato il Consiglio d'Europa, ma è un primo passo. Abbiamo detto entro fine maggio facciamo una legge di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione e in quella legge cambiamo il modello di finanziamento. Però il punto interessante sul quale vorrei ricoinvolgere Franco Becchis è proprio questo che dice: vogliamo far chiudere i partiti, quindi vogliamo chiudere la democrazia, togliamo il rimborso, una sorta di finanziamento, perché l'80-90% del budget dei partiti deriva da quello. Eppure Becchis, io ho letto nel suo articolo di ieri che in cassa, nei partiti, nelle casse di liquidità ci sono 205 milioni. Quindi voglio dire, i partiti cosa fanno? Incassano e spendono per sopravvivere? Poi risponde su questo. Becchis, cioè sono vivono lì che fanno i conti per incassano e spendono, oppure hanno le casse gonfie? Ma guardi, se noi togliamo i disastri storici, e tra i disastri storici c'è uno dei partiti di origine del Partito Democratico, che sono i democratici di sinistra, che avevano debiti fin sopra i capelli, perché lì dentro hanno buttato via i soldi anche dei propri militanti, perdendone a palate. Ma se togliamo quelli, i partiti sarebbero anche in attivo anno su anno, perché adesso Misiani ci dirà che quella liquidità è dovuta al fatto che i rimborsi arrivano a luglio e quindi il bilancio è tra luglio e luglio. Ma dovrebbero non avere niente, ma il problema è all'origine. Gli italiani hanno votato, non gli editorialisti, gli italiani hanno votato dicendo che non vogliono il finanziamento ai partiti, e si sono fatti una legge sul rimborso elettorale che è una presa in giro. Sa cosa mi ha detto una volta, sa cosa ha risposto una volta Sposetti a questi microfoni a questa domanda? E gli italiani hanno sbagliato. Sì, d'accordo, gli italiani, ma la democrazia funziona chiedendo agli italiani le cose, e se gli italiani hanno deciso così, i partiti non devono avere finanziata la propria attività politica, è già stato deciso, e i rimborsi elettorali dovrebbero essere spesi un secondo dopo essere ricevuti, quindi non dovrebbero esserci mai in cassa a fine anno dei soldi, perché non importa, cioè se il rimborso di una spesa è effettuata, ecco, un partito si indebiterà con la banca e vanno immediatamente restituiti con la banca che ha anticipato i soldi, perché devono essere uguali alle spese effettuate. L'attività politica ordinaria non deve essere finanziata, perché gli italiani hanno deciso così. Se vogliono fare attività politica ordinaria durante l'anno, a parte le campagne elettorali, devono raccogliere dei fondi privati. Questo l'hanno deciso gli italiani, non gli editorialisti. Ma su questo credo che degli italiani si deve rispettare. L'onorevole Misiani, nella sua onestà, quando è stato più volte da noi, credo che lei, onorevole, abbia ammesso dicendo: sì, è vero, abbiamo gli italiani. Gli italiani hanno votato così e noi abbiamo, noi sistema politico, per sopravvivere ha aggirato la norma mettendo i rimborsi, hanno tolto il finanziamento e noi li chiamiamo rimborsi e hanno creato la norma attuale. È stato un po' un raggiro della volontà democratica degli italiani, o no, onorevole? Ma guardi, il referendum riguardava il finanziamento diretto dei partiti politici, che è una delle modalità con cui si può finanziare la politica. E voi avete inventato il rimborso. Non è che abbiamo inventato i rimborsi, ci sono in altri paesi europei, sono previsti in Germania, sono previsti in Francia. La Spagna ha un sistema misto, insomma, sì, ma la sensazione è che se si facesse il referendum per cancellare il rimborso inventate un terzo sistema, ecco. Questo, guardi, è, questo è quello posso, almeno che l'opinione pubblica pensa. Provo ad essere onesto anche in questa sede, ma io lo dico chiaramente, io sono a favore del finanziamento pubblico della politica. È chiaro che non deve esaurire il modo in cui i partiti si procurano le risorse, ma avere una base pubblica permette ai poveri tesorieri di non dover andare col cappello in mano dalle grandi imprese, dai centri di interesse, dai potentati economici a chiedere risorse che poi inevitabilmente condizionano l'attività politica dei partiti. Negli Stati Uniti, dove il finanziamento pubblico della politica è pressoché assente, l'agenda politica viene dettata da chi paga le campagne elettorali dei repubblicani piuttosto che dei democratici. Onorevole, io mi devo fermare per il traffico, ma i poveri tesorieri, poi le anticipo queste domande, i poveri tesorieri che vanno col cappello in mano sono quelli che hanno 205 milioni... Ne parliamo tra poco. Allora, onorevole Misiani, sono questi poveri tesorieri che vanno col cappello in mano gli stessi che hanno 205 milioni di euro. Non la voglio fare sparare, tra virgolette, politicamente sui finanziamenti in Tanzania di un partito, l'altro tesoriere fa la villa. Però... Le racconto come funziona il Partito Democratico, come funziona a casa nostra. Noi nel 2000, fine luglio, inizio agosto, incassiamo la rata dei rimborsi elettorali, che ammonta ad una sessantina di milioni di euro. Queste risorse, insieme alle altre entrate, le utilizziamo per fare attività politica, pagare la struttura, il personale e quant'altro, e quindi si riducono progressivamente quella massa di risorse che arrivano a fine luglio e inizio agosto. A fine anno ci ritroviamo ogni anno liquidità per 18, 19, 20 milioni di euro, che viene ulteriormente prosciugata nei mesi successivi fino all'arrivo della successiva rata di rimborso. Quindi voi spendete tutto, voi a luglio, a ogni anno arrivate a zero. Non solo spendiamo tutto, capita piuttosto spesso che noi dobbiamo chiedere anticipazioni bancarie per gli ultimissimi mesi prima dell'arrivo dell'ultima rata. Poi è chiaro che ci sono partiti che fanno meno attività politica o addirittura partiti zombie e partiti morti che non fanno più attività politica e a cui sono rimaste risorse importanti. Per esempio credo che la Margherita, al di là dell'inchiesta giudiziaria in corso, abbia in cassa una ventina di milioni di euro. Questo deriva da un nodo vero dell'attuale sistema, dei controlli, la mancanza di controlli. Non solo i controlli, ma anche la non connessione diretta del finanziamento pubblico con quanto effettivamente viene speso, io dico non solo per le campagne elettorali ma anche per l'attività politica. No. Poi so che Bechis non è d'accordo. Per carità, poi Misiani ci racconta la vicenda dal punto di vista del Partito Democratico, che è uno dei primi partiti che ha certificato il bilancio, tra l'altro, da una società di revisori di conti. Questo va dato atto al partito. Però Bechis, qui sembra che vada tutto bene. L'opinione pubblica cosa si è un po' ammattita? Gli italiani sono lanciati in una campagna demagogica. Ha fatto riferimento ad altri paesi, incautamente. Ieri è arrivato un rapporto molto duro su come funziona in Italia il finanziamento ai partiti e questa legge sui rimborsi elettorali, che viene proprio dal Consiglio d'Europa, che è rimasto allibito sul fatto che noi avessimo una legge che rimborsava 2,25 miliardi di euro a partiti che avevano speso 570 milioni di euro, allibito anche per il sistema dei controlli e per come è stata finora gestita la vicenda del... quindi siamo stati censurati da tutti gli altri paesi europei, altro che prendere a modello gli altri. Noi abbiamo le leggi che facciamo come gli altri si rivoltano quando guardano come avviene in Italia. E questo è il primo punto. Il secondo punto, uno può raccontarci le barzellette che vuole, ma i partiti non hanno un bilancio consolidato. La federazione del PD di Livorno non è ricompresa dentro il bilancio del Partito Democratico. Se io do dei soldi in nero alla federazione locale di quel partito, nessun revisore dei conti a livello nazionale riuscirà mai a capire niente. Molti dei fatti di cui parliamo sono avvenuti così, in questi, cioè sulle devianze dei partiti politici, no? I finanziamenti illeciti alla politica stanno continuando in tutti i santi partiti, dal PD al PDL, alla UDC, alla Südtirol e Volkspartei, alla Lega ovviamente che stiamo vedendo in questi giorni. Sono 60 le inchieste negli ultimi anno e mezzo che sono state aperte. 60 inchieste. Sapete cosa ha detto il neotesoriere della Lega, Stefano Stefani, intervistato oggi dal Messaggero a pagina 8, la prima dichiarazione? Allora, ha visto le carte, che vuole che abbia trovato nelle carte? Ci sono migliaia di voci, non riesco a capire niente. Questo il neotesoriere, cioè non riesco a capirci niente di un bilancio di partiti. Per carità, è arrivato da pochi giorni, quindi avrà tempo per studiare tutto, però è anche questo un po' la mancanza di tenuta di un sistema, per cui c'è una persona in genere e spesso questa persona è depositaria di tutta la cassa. Non per tutti i partiti è così. Io però vorrei fare due domande a Misiani molto chiare. La prima è questa. Lei ce l'aveva già detto, i radicali tuonano sempre contro il finanziamento ai partiti, ma lei ce lo può confermare? I radicali prendono anche una quota parte di quelle quote che arrivano al Partito Democratico, perché alcuni dei radicali sono stati eletti nei vostri ranghi in Parlamento? Misiani. Assolutamente sì, come è scritto nero su bianco nei nostri rendiconti, ogni anno giriamo 630.000 euro ai radicali in ragione di un accordo stipulato per le politiche del 2008. Poca cosa, diciamo, però 630.000 euro. Non ho mai visto una lettera di rinuncia dei radicali a quelle risorse in nome della loro battaglia contro il finanziamento pubblico. La seconda domanda è questa. Non c'entra con la questione dei rimborsi ai partiti, però me lo chiedono molto perché abbiamo dedicato varie puntate a questo. Come è finita la vicenda dei manifesti abusivi che ogni anno i partiti si condonano con una legge per la quale si paga una mini multa e si mettono a posto tutti i manifesti abusivi? Perché Monti aveva detto quest'anno no, non si può fare questa cosa. Pagherete, non pagherete? Avete fatto ricorso come partiti? Ma guardi, questa è una situazione che c'è a livello territoriale, comunque non c'è stata nessuna sanatoria, ci sono le multe e andranno pagate le multe. Quindi andranno pagate? Le multe vere, quelle non 1000 euro a provincia e vi mettete a posto, multe milionarie. Non c'è nessuna sanatoria, poi ci sarebbe tanto da dire su come vengono fatte le multe, però forse questa non è la fede. Questa va bene, ma quindi pagherete, c'è una scadenza di questa multa. Quanto dovete pagare voi al Partito Democratico? Non abbiamo fatto i calcoli. Più o meno. Non abbiamo fatto un calcolo perché sono situazioni gestite territorio per territorio, quindi dovremmo fare 100 telefonate provincia per provincia. Comunque per pagherete, c'è una scadenza per la multa, c'è una data? No. Onestamente le confesso che non conosco la normativa di dettaglio, però le multe vanno pagate fino a prova contraria. Vanno pagate. Vorrei sentire Beppe da Milano che ci ha chiamato, tanti ascoltatori su questi. Beppe, chiudiamo con lei. Pronto? Pronto? Dica. Ah, ecco, sono qua. No, purtroppo io la mia domanda era che il rimborso che veniva dato, se veniva dato dai votanti, quindi contando i voti, sì? E quindi questo rimborso ai partiti veniva dato a ogni voto effettuato. No, caro Beppe, e no, qui c'è la fregatura, perché lei dice io non vado a votare e quindi non do il mio euro, questo lei vuol dire, io non vado a votare e non contribuisco? Purtroppo il mio pensiero era non solo un euro, che sarebbe stato quello poi sono quattro. Ma sono diventato quattro, quindi quattro, non andando quattro. A votare. E no, caro Beppe, e no, lei non andando a votare i 4 euro, uno per le regionali, uno per la Camera, uno per il Senato, uno per le europee, lo dà lo stesso, perché sono 4 euro per ogni iscritto e quindi per ogni avente diritto al voto. Lei va a votare, non va a votare, i 4 euro li paga uguale. Ci fermiamo qui, grazie a Franco Bechis, vice direttore di Libero, e all'onorevole Antonio Misiani, tesoriere del Partito Democratico. A domani.